America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Wall Street ieri, direi che ha avuto uno scampanellio molto forte, perché nel momento in cui si stabiliva un nuovo record storico a quota 14.253, nel momento in cui si esorcizzava la crisi finanziaria, gli operatori, l'America e il mondo apprendevano la notizia della morte del presidente venezuelano Hugo Chavez, una notizia che creerà dei profondi sconvolgimenti dal punto di vista geopolitico. Ma restiamo per ora sulla borsa, nuovo record storico sotto quota 14.253,77 contro il precedente record 14.164,53. Qual è la differenza? Che il precedente record era stato stabilito il 9 ottobre del 2007. Ci sono voluti quasi 6 anni per recuperare il terreno perduto, 6 anni di fatica, di crisi finanziaria, di disoccupazione, di crisi economica, di crisi internazionale, di crisi che noi stessi in Italia e in Europa ancora stiamo soffrendo. Ma l'America si è portata in avanti, ha scelto politiche aggressive dal punto di vista dello stimolo dell'economia. L'austerità, si diceva a Washington, sarebbe venuta dopo, e difatti è solo ora, dopo 7 anni, che si sta parlando di austerità e di tagli alla spesa, nel momento in cui appunto l'economia si sta riprendendo. La borsa ha esorcizzato questo periodo tremendo, cominciato nel 2007 con la crisi del subprime, continuato nel 2008 con la crisi di Bear Stearns, di Lehman Brothers, e poi nel 2009 ed oltre. Il punto minimo della borsa, pensate, si è toccato il 5 marzo del 2009, quota 6.594, perdite di oltre il 50% in 17 mesi. Certo, chi avesse comprato allora nel 2009 oggi avrebbe fatto guadagni prodigiosi di quasi il 100%. America 24. Alle 4:25 della tarde di oggi 5 di marzo ha fallecido il comandante presidente Hugo Chavez. È stato il vicepresidente Nicolas Maduro a annunciare la morte di Hugo Chavez. Chavez, lo sappiamo, era malato di cancro, aveva 58 anni, era appena rientrato da Cuba, sembrava che potesse riprendersi, era apparso appena pochi giorni fa in televisione, eppure poi il declino è stato più rapido di quello che ci si potesse pensare. Scompare dunque un personaggio di straordinario colore politico, controverso, difficile, un nemico degli Stati Uniti d'America, un uomo che riuscito a riportare l'idea del populismo più spregiudicato in Sud America, naturalmente sempre con condimenti rivoluzionari. Era anche molto legato a Fidel Castro. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Certo, ci ha dato da scrivere molto Hugo Chavez. Questo è stato un suo intervento alle Nazioni Unite in cui ha paragonato George W. Bush al diavolo. E il diavolo, il diavolo, urlava dal podio delle Nazioni Unite. Bene, ieri giravano un po' di battute su queste, forse un po' ciniche. Fra tutte vi cito quella di Dana Loesch, una conduttrice radiofonica americana con un grandissimo seguito. Ha detto: ho paura che Chavez si stia accorgendo che il diavolo non è Bush. Ante la pretensión de revivir las negociaciones del ALCA. Blanca Ciancoso, novembre 2005, Mar de la Plata, vertice delle Americhe, la sentite? È una indio-ecuadoriana che attacca l'America, che sposa la tesi di Hugo Chavez. Se devo ripensare a un momento di straordinaria vittoria dal punto di vista personale, dal punto di vista politico, per questo leader sudamericano, è stato proprio il vertice del Mar della Plata, un vertice che si è tenuto, come dicevo, nel 2005. Era il terzo vertice delle Americhe. Il vertice delle Americhe era un'idea nata con Bill Clinton, era un'idea di creare un'unica area continentale di libero scambio. C'erano questi vertici ogni 3-4 anni, erano dei vertici importanti. L'America di Bush andò a Mar della Plata in Argentina sapendo che aveva contro Chavez, che avrebbe avuto contro Evo Morales, il presidente della Bolivia, ma puntava, così ci dissero gli uomini del presidente americano, puntava l'America a cercare di creare un minimo di coesione fra gli stati vicini, gli stati amici, e che potevano essere il Brasile, poteva essere l'Argentina. Ebbene, il tradimento, se vogliamo, è venuto proprio dall'Argentina, perché che questo intervento di Blanca Cancioso che vi ho appena fatto sentire fu in uno stadio di Mar della Plata, dove Hugo Chavez organizzò una adunata oceanica con 50-60 mila persone, divenne un vertice alternativo, con interventi di ogni genere, una grande festa popolare. Questo era Humeray Pérez che cantava una delle sue canzoni, quindi c'era anche intrattenimento musicale. Ma parliamo di Argentina, c'erano gli argentini in quello stadio, non c'erano i venezuelani, e Chavez lo aveva riempito, aveva portato il suo tocco populistico mischiando un po' di tutto, musica, politica e naturalmente calcio. Che lo quiero mucho, gracias por estar. L'Argentina è digna, echemos a Bush. Ha presentato Diego Maradona, lo avete sentito, anche Maradona ha cominciato a pronunciare slogan contro l'America. Da questo stadio noi non facevamo altro che sentire degli slogan contro l'America, degli slogan rivoluzionari. Uno dei momenti più alti c'è stato proprio con l'intervento di Evo Morales, sentitelo, credo che non avrò bisogno di tradurvi quello che dice. Evo Morales. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Certo, Chavez è stata una spina nel fianco per gli Stati Uniti d'America, ha trovato alleati anche in America. Uno di questi, Oliver Stone, con un documentario South of the Border. El golpe contra Chávez tuvo un motivo: petróleo. Oil. Bush planificò. Ecco, avete sentito Chavez intervistato da Stone, che dice che Bush ha in mente soltanto il petrolio, la guerra in Iraq per il petrolio, la guerra contro di lui, l'attentato del 2002, dice, organizzato da Bush contro di lui, di nuovo il petrolio. Creo que no hay ninguna experiencia de los gobiernos actuales en América Latina ni en el mundo que haya tenido la cantidad de elecciones con la che ha passato Hugo Chavez. Infine un'intervista di Stone con la Kirchner, presidente dell'Argentina, la quale dice: ma come, ha avuto 13 elezioni, chi può dire che un dittatore si è presentato fin troppe volte davanti al popolo? Popolo, populismo, matrice sudamericana, ma adesso si apre un nuovo capitolo. Non sappiamo cosa succederà di Cuba. Cuba si riforniva del petrolio venezuelano, campava di quello, Fidel e Chavez erano ottimi amici, Chavez si curò proprio con dei medici cubani. Non sappiamo cosa succederà del contesto geopolitico sudamericano, ma sappiamo che gli Stati Uniti hanno inviato un messaggio al popolo venezuelano dicendo: si chiude una pagina della vostra storia, se ne apre una nuova, pensiamo alla democrazia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. L'abbiamo visto ieri col nuovo massimo storico dell'indice Dow Jones. Vi lascio alle notizie sul nostro sito America24 e a Twitter @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, South of the Border era il titolo del documentario di Stone dedicato a Chavez. Tra l'altro sembra che Stone abbia fatto questo documentario finanziato da una società washingtoniana che era a sua volta finanziata dalle società petrolifere venezuelane, dunque ci sono state poi molte polemiche su questo. E dunque a South of the Border, a quello che è successo in Venezuela, dedichiamo la canzone del giorno con la vera originale canzone di Gene Autry, 1939, South of the Border. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered mañana, for our tomorrow never came. Of the border, I rode back one day. There in a veil of white, by candlelight, she knelt to pray. The mission bells. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!